Venerdì prossimo, 25 aprile, a Pratello Resiste, tra gli ospiti sul palco di Piazza San Rocco ci sarà anche Lorenzo Guadagnucci, giornalista e autore di un libro che è appena uscito, Un'altra memoria, edito da Altra Economia. Ne parliamo proprio con Lorenzo che è al telefono con noi, buongiorno. Buongiorno. È interessante nel presentare il tuo libro anche leggere, diciamo così, il sottotitolo, quello che troviamo in copertina, perché fa capire poi anche i contenuti. Guerre, stragi, muri e genocidi producono assuefazione, un paradigma fallito da ricostruire. Si parla di memoria, ma si parla anche di presente. Assolutamente sì, la memoria è un motore di ispirazione per l'azione politica, sociale, culturale, quindi parla al presente. Questo libro nasce in realtà da un disagio che ho provato io stesso con il gruppo di camminatori che ogni anno raggiunge Sant'Anna di Stazzema a partire da Montesole Marzabotto. L'estate scorsa, il 12 agosto a Sant'Anna, ci siamo trovati a ricordare i morti della strage di 80 anni prima, avendo nel cuore, nella mente, Gaza, la strage, le stragi, lo sterminio, il genocidio di Gaza, chiamiamolo come vogliamo, ma si tratta di qualcosa di inaccettabile che ha a che fare con la memoria delle stragi. Io ho pensato questo, mi sono reso conto che non è possibile, non mi sentivo di celebrare, ricordare, fare memoria di quei morti, tra i quali c'è anche una mia nonna virtuale, assistendo nel frattempo in silenzio e complice in quanto parte cittadino di un paese democratico che sostiene sostanzialmente quello che lo Stato di Israele sta facendo. Sappiamo tutti che Israele fa quello che fa a Gaza perché ha un sostegno militare, politico, mediatico in Occidente. Questo secondo me crea una contraddizione enorme, abnorme, che ci impone di rivedere tanti parametri di ciò che consideriamo memoria. Io ho parlato esplicitamente di fallimento dei luoghi della memoria perché credo che luoghi come Montesole, Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema e tanti altri dovrebbero essere, come dire, un argine a queste derive di guerra, di disprezzo per la vita umana, di pratiche che sono dei crimini di guerra come quelli che furono compiuti 80 anni fa. Ecco, questo grido non si è elevato e io credo che questo sia un problema del quale dobbiamo parlare, che deve essere affrontato. Ci sono tanti spunti di riflessione su domande che immagino molti cittadini si stanno ponendo in questi mesi e in questi anni. Ovviamente, paragonando quello che sta accadendo a Gaza da altri conflitti, abbiamo visto come anche sui nostri mezzi di comunicazione, ma anche la politica, usi una sorta di doppio pesismo, ecco. Tu parli in un capitolo proprio anche di scorta, non solo mediatica. Sì, quello a cui abbiamo assistito in questi anni, ormai direi da partire dalla guerra in Ucraina in poi, è stato un ruolo da parte del giornalismo e quindi il discorso pubblico che si è formato attorno a queste questioni, prima Ucraina e poi Gaza, è stato fortemente viziato da un atteggiamento del potere mediatico, diciamo così, così vicino al potere politico prevalente da farci ricordare più il clima che c'era nel 1914, per esempio in Italia. All'epoca si doveva decidere se l'Italia sarebbe dovuta entrare o no in guerra, il famoso maggio radioso, le mobilitazioni di piazza che spinsero poi il nostro paese a scegliere di entrare in guerra a partire invece da una posizione che era di neutralità. Ecco, quel clima di eccitazione bellicista, di questo favore, di questo fervore, no, per una soluzione militare del conflitto, della situazione che c'era in Ucraina e poi di nuovo oggi a Gaza e in Cisgiordania, a me fanno parlare di una sorta di tradimento, no, del potere mediatico rispetto alla sua missione. E questo ha profondamente inquinato la percezione dei fatti e anche la comprensione, io credo, di quello che ci sta accadendo intorno. E forse la suefazione, l'indifferenza, la noncuranza che abbiamo per lo sterminio, per il genocidio in corso a Gaza, ha a che fare anche con questo tradimento della missione di indipendenza, di servizio ai cittadini che il potere mediatico dovrebbe avere. Torno alla questione delle commemorazioni delle stragi, appunto, nazifasciste, e tu a un certo punto fai anche una disamina delle parole che vengono pronunciate da quei palchi, che sono per la pace, ma contemporaneamente contemplano il possibile utilizzo delle armi e della guerra. Sì, io credo che su questo punto ci deve essere, come dire, un momento di rottura e di chiarezza. Sono punti di vista che non stanno tanto facilmente insieme. Per quello che mi riguarda, la memoria delle stragi ha a che fare terminare con un principio cardine, e cioè l'idea che tutte le vite contino, perché quello che è accaduto nelle stragi nazifasciste in Italia e altrove è che le vite, alcune vite, le vite degli altri erano vite a disposizione, vite così poco importanti che si potevano annientare nell'arco di una mattinata, come per esempio è successo a Sant'Anna, nell'arco di alcuni giorni, come è successo a Montesole e Marzabotto, come se appunto si potesse distruggere quelle vite senza riguardo, senza rimorso. Questo è quello che è avvenuto. E la rottura che c'è stata nel dopoguerra, con la dichiarazione dei diritti umani, con l'affermarsi delle costituzioni, è stato proprio il principio che tutte le vite contano. E guardiamo bene, è un principio che fino ad allora nella storia non c'era mai stato. Pensiamo al colonialismo, alle guerre precedenti, delle carneficine, delle mattanze del nemico, no? Quindi c'era la figura del nemico come persona meno persona degli altri. Se questo principio noi lo mettiamo da parte, ed è quello che stiamo facendo, e lo stiamo facendo nelle guerre che si combattono, ma anche nell'Europa fortezza che lascia morire le persone migranti ai suoi confini, e noi stiamo tradendo quell'insegnamento. Quindi a mio avviso ricordare le stragi e poi avvicinarsi al concetto di guerra giusta, la possibilità di armare e di distinguere fra i nostri conflitti, che sono quelli buoni perché li combattiamo noi per le nostre ragioni, e i conflitti sbagliati, quelli che cominciano gli altri, compiamo anche qui un tradimento della memoria delle stragi, che è un insegnamento molto radicale, molto forte, se si vuole anche assoluto, ma è un principio cardinale della convivenza che si è tentato di affermare dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi la memoria delle stragi, secondo me, deve uscire da questo equivoco una volta per tutte. Prima di arrivare alla proposta che avanzi nel tuo libro su come appunto intendere la memoria, ti volevo fare invece una domanda che riguarda sia quel periodo, e in particolare ci stiamo avvicinando al 25 aprile, che il presente, perché oggi si sentono persone che dicono: eppure i partigiani hanno imbracciato le armi e quindi questo giustificherebbe il fatto di farlo anche oggi. Come rispondere? Questa è una visione di comodo. I partigiani imbracciarono le armi perché si trovarono in una situazione che non consentiva altro. No, erano spesso addirittura dei coscritti alla leva che andavano in montagna rifiutando l'arruolamento, ma i partigiani ci hanno consegnato la Costituzione, ci hanno consegnato l'articolo 11 della Costituzione. Quando si scelse il verbo da usare e si puntò poi sul ripudio piuttosto che su altri verbi meno blandi, questa è una decisione che aveva a che fare proprio con la lotta di resistenza, perché i partigiani capirono di fronte alla seconda carneficina mondiale, perché forse dovremmo chiamare così la guerra, una carneficina, capirono che bisognava arrivare a un punto di rottura e a un punto di svolta, quindi il ripudio dell'uso delle armi. E questo è quello che l'insegnamento che i partigiani ci trasmettono. Oggi nei conflitti che si profilano fra paesi, nei contrasti fra paesi, la scelta che ci viene dalla lotta partigiana è quella della soluzione non violenta dei conflitti. Per questo si arrivò alle costituzioni europee democratiche, alla dichiarazione dei diritti umani, alla costituzione dell'ONU. Quindi l'idea di invocare l'esperienza dei partigiani per giustificare le guerre del presente è assolutamente da respingere, da rifiutare come infondata storicamente e politicamente. Dicevo appunto, la proposta che avanzi nel tuo libro, che si evince anche dal titolo, insomma, io e te apparteniamo a una generazione in cui, come dire, alcune parole di questo titolo poi portano anche a una conclusione, cioè un'altra memoria è possibile. Sì, io credo che abbiamo bisogno di rigenerare la memoria, che sta diventando un rito al quale appoggiarsi, qualcosa anche alle volte di consolatorio, no? Che ci permette di ritrovare la nostra identità, senza però che questo implichi poi delle azioni conseguenti. Penso per esempio appunto a quello che abbiamo appena detto sull'atteggiamento da avere rispetto alle guerre. Io credo che abbiamo bisogno di riconsiderare la memoria. In questo libro faccio anche un viaggio anche fisico a nord-est, perché mi sono anche domandato se non abbiamo sviluppato una memoria troppo vittimistica, no? Per cui ci percepiamo rispetto alla Seconda Guerra Mondiale come vittime e dimentichiamo anche il ruolo che invece abbiamo avuto come italiani, per esempio come carnefici. Sono stato al campo di Gonars in Dalmazia, campi di concentramento allestiti dall'esercito italiano, dove morivano gli slavi, no? Come li chiamavano allora, gli sciavi a Trieste. Allora, dobbiamo riallargare lo sguardo rispetto alle nostre responsabilità dell'epoca, ma dobbiamo allargare, secondo me, lo sguardo anche in chiave temporale, venire più vicini a noi. La memoria non è solo quella della Seconda Guerra Mondiale, ma è anche la memoria dei movimenti sociali, che oggi hanno una responsabilità enorme nel contrastare questo arretramento che è in corso in tutta Europa, in tutto il mondo, dove la democrazia, la pace, l'idea di una convivenza non violenta fra i popoli viene respinta e allontanata. E io dico che i movimenti sociali sono stati parte dirigente, classe dirigente, in più momenti della storia, e individuo negli anni 2000 l'epoca di Porto Alegre e Genova in primo luogo, e poi anche i movimenti pacifisti del 2003 contro la guerra in Iraq. Ecco, in quei momenti i movimenti indicavano la via giusta, lo possiamo vedere ancora meglio 20 anni dopo, furono scelte delle strade sbagliate al tempo, ma dobbiamo rivendicare quella visione, quella capacità profetica che abbiamo avuto e farne tesoro, fare di quella storia parte della nostra memoria, aggiungerla alla memoria della resistenza. Io credo che questa sia un'operazione vitale in questa fase storica in cui ci sentiamo anche un po' confinati in un angolo dove sembra tutto andare a rotoli. Ecco, abbiamo dentro di noi delle forze che dobbiamo tirare fuori. Io, Lorenzo, ti ringrazio, ricordo il tuo libro Un'altra memoria, edito da Altra Economia, ricordo che sarai a Pratello Resiste sul palco anche a presentarlo, quindi anche ascoltatrici e ascoltatori potranno venire, oltre che per ascoltarti, anche per acquistarlo lì. Comunque è già uscito in libreria, giusto? Esce il 25 aprile per l'appunto. Perfetto. Grazie mille e buon lavoro. Grazie, ci vediamo a Pratello.